Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City, un'auto a guida autonoma che sognando impara a guidare meglio. La notizia arriva dall'Università di Trento, devo dire se ne sono occupati diversi media, dicevo arriva dall'Università di Trento dove nell'ambito del progetto Horizon 2020 Dreams for Car hanno messo appunto ricercatori trentini prima il concept, poi hanno realizzato il primo prototipo che hanno anche dimostrato su due modelli reali di questa auto a guida autonoma che sogna. L'aspettativa è che questa tecnologia possa dare un contributo per migliorare le prestazioni di sicurezza di auto e anche di altri mezzi intelligenti, non necessariamente su ruote. A coordinare questo progetto il nostro ospite è il professor Mauro Dalio del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Ateneo Trentino. Buonasera Dalio, benvenuto. Buonasera. Allora, tanto per cominciare, ci deve spiegare in che senso questa intelligenza artificiale che, come dire, muove le auto a guida autonoma sogna. Sì, diciamo che il sogno è un'attività di pensiero che viene realizzata in una fase in cui un essere non è attivo. E ci sono varie ipotesi su cosa succede durante il sonno, il sogno, però diciamo noi abbiamo preso spunto da queste idee immaginando che un veicolo possa raccogliere informazioni mentre guida, e parlo sia di informazioni di basso livello, cioè imparare la dinamica del veicolo in diverse condizioni ambientali, per esempio, o imparare anche, diciamo, situazioni di livello un po' più complicato, con tipo situazioni che si realizzano in un incrocio, in un sorpasso, eccetera. E disponendo di queste informazioni, nel momento in cui il veicolo non è attivo, può costruire i cosiddetti modelli inversi, cioè nel caso della dinamica di basso livello può imparare a realizzare le azioni per controllare il veicolo. Magari sul bagnato, per capirsi. Magari sul bagnato, eccetera. E, mentre a livello un po' più alto può imparare delle strategie di comportamento che siano più efficienti. Tutto questo, diciamo, riducendo di molto la necessità di una programmazione minuta da parte dei progettisti. Quindi, diciamo, non so se è un buon modo di dirla, che l'auto, mentre è inattiva, simula, per così dire, degli scenari, vive questi scenari e si esercita nel corso di queste simulazioni. Sì, in realtà non è l'auto, perché sì, certo, è il computer che fa queste simulazioni, certo. È un altro. E per esempio, a differenza degli uomini, questo computer fa una specie di sogni condivisi in cui tutte le auto sognano assieme. Però, in realtà non è solo che si esercita in questi sogni, ma il processo che avviene durante queste simulazioni è un processo di sintesi dei modelli inversi, cioè ci sono dei metodi abbastanza efficienti per derivare comportamenti o anche controllo del veicolo senza necessariamente dover sognare 100 volte la stessa situazione. Perfetto, perfetto, molto chiaro. Ecco, in che modo questa peculiarità, questa capacità, diciamo, di sognare può migliorare la sicurezza della guida autonoma? Allora, l'idea di fondo è che sia possibile raccogliere elementi incontrati durante la guida reale per costruire delle situazioni fittizie un po' al limite di quello che è stato sperimentato, però situazioni che potrebbero succedere, e quindi in queste situazioni il veicolo può elaborare delle strategie di comportamento che lo preparano sostanzialmente ad agire per situazioni che ancora non si sono realizzate, ma che potrebbero realizzarsi. A che stadio è lo sviluppo di questo progetto? Se avete delle prospettive di applicazione, perché è già difficile la guida autonoma, introdurre anche questi cambiamenti, che sono cambiamenti abbastanza sostanziosi, deve essere ancora più difficile. Sì, allora, in realtà Dreams for Cars è una tecnologia di intelligenza artificiale e robotica che ha lo scopo di fornire degli strumenti per sviluppare la guida autonoma. Non era l'oggetto guida autonoma in sé l'obiettivo, ma questi strumenti aggiuntivi per svilupparla. Diciamo, come tutte le cose, quando l'innovazione è abbastanza elevata, richiede anche un tempo necessario perché sia assorbita da chi sostanzialmente saranno gli sviluppatori dei sistemi a guida autonoma. Certo. Dopodiché i tempi per l'adozione della tecnologia sono anche tempi necessari per i progettisti a entrare nella mentalità di utilizzare questa tecnologia. Un'ultima domanda, altri settori di applicazione, perché questa robotica che interagisce con l'uomo è una prospettiva, direi, ormai concreta, forse l'auto non è proprio lo scenario più vicino, ma pensiamo alle fabbriche. Sì, allora, diciamo, in linea di principio il meccanismo di base per cui un robot è in grado di costruire strategie di azione sulla base delle proprie esperienze può essere applicato anche in altri ambiti. Penso, per esempio, nell'ambito del manufatturiero, macchine che, diciamo, mentre producono possono imparare se stesse a elaborare delle strategie di produzione più avanzate. Oppure, diciamo, robot che siano in grado di manipolare oggetti o cose del genere. Di fatto, diciamo, questo meccanismo di apprendimento è esistente negli esseri viventi, certo, e non serve solo per la locomozione. Mi sembra chiarissimo. Allora, grazie Mauro D'Alio. Buonasera. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, appuntamento a domani. A voi tutti buona serata. Ora è ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite su aruba.it.